ritroverai la storia di sempre. Sai che tutto si ripeterà. Che è stato un giorno ancora sarà tu, tra un mese, tra un anno ti illuderai cercando il domani, ma passata riportar da te. Cercando il domani.